della vendetta, già mi chiama e già l'alletta per Carlo peso sento al cielo l'onor che dice vanne vinti e più felice spennarla. Yeah.